Squadra dei vigili del fuoco di Sesto. L'area dismessa Farsa, dove alloggiavano nomadi. L'incendio è venuto verso le 12.030. Una vittima, un ragazzino di 14 anni circa, apparente età. Quando siamo arrivati noi era già stato avanzato l'incendio, quindi era già quasi, si era quasi già estinto. All'Italia, dicevamo, prosegue la mediazione tra governo e CAI. Si svolgerà oggi l'udienza in tribunale per la decisione dello stato di insolvenza. Stamani a Fiumicino l'assemblea di tutti i lavoratori del gruppo, indetta da CISL, UIL e UGL. Berlusconi ha ribadito che una soluzione è ancora possibile per salvare Alitalia e mantenerla italiana, mentre Veltroni ha avanzato 3 proposte per sbloccare la trattativa. È destinata a prolungarsi l'attesa per la liberazione degli 11 ostaggi, 5 italiani, 5 tedeschi e una romena, e degli 8 egiziani sequestrati venerdì scorso nel deserto sahariano al confine tra Egitto, Sudan e Libia. Dal ministro Frattini la richiesta di silenzio stampa a cui Radio 24 aderisce. Il governo ha approvato ieri il disegno della legge finanziaria che prevede una crescita per il 2008 prossima allo 0+0 e 1%. Soddisfatto il ministro Tremonti per la manovra economica. Sono stati rispettati gli impegni presi, ha detto, e sarà così evitato l'assalto alla diligenza. Approvato anche il decreto legge sull'impiego dei militari nella provincia di Caserta, dove saranno inviati 500 soldati. Il candidato democratico alla Casa Bianca, Barack Obama, prende il largo e accumula un vantaggio di 9 punti percentuali, 52% contro 43% nelle intenzioni di voto sul rivale repubblicano John McCain. I dati sono relativi all'ultimo sondaggio nazionale condotto da Washington Post ed ABC News. Giro di vite in Italia sui prodotti alimentari made in China. Dopo lo scandalo del latte alla melamina che ha ucciso 4 neonati e ha fatto ammalare 50.000 bambini, controlli a tappeto anche da noi. Daniele Barbone, direttore di BPSEC, azienda che si occupa del controllo qualità dei prodotti made in China in arrivo in Italia. Sicuramente sui prodotti freschi, anche per gli accordi bilaterali che vigono tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, in particolare nel comparto dei latticini e del latte, noi non corriamo sostanziali rischi. Se vi sono stati dei sequestri, è molto più probabile che siano avvenuti non tanto perché fosse contaminato, ma perché non poteva essere sul nostro mercato quel tipo di prodotto. Quindi questo è il motivo per cui anche in questi giorni le autorità italiane stanno effettuando dei sequestri di prodotti latticini che vengono dal mercato cinese. L'altro settore, quello dei derivati, è un settore un po' più delicato che forse è bene che venga tenuto sotto controllo. Una sentenza della Corte di Cassazione apre la possibilità per i figli di avere il doppio cognome del padre e della madre. Nel nome della madre e della Costituzione europea. Una sentenza degli anziani giudici della Cassazione rende più tangibile il diritto alla parità dei sessi. La Suprema Corte infatti spezza un'altra lancia affinché marito e moglie, se sono d'accordo, possano dare ai figli il solo cognome materno. Questo il ragionamento dei giudici. Anche l'Italia, come tutti i 27 Stati membri, ha il dovere di uniformarsi ai principi comunitari, come quello del divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e del rispetto della vita privata e familiare. Già nel 2004 ci fu un tentativo fallito di scardinare il predominio del nome paterno, retaggio di una concezione patriarcale della famiglia. Nel 2006, quindi, i giudici della Cassazione si appellarono al Parlamento affinché si decidesse a togliere i veti al cognome materno. Il quadro delle norme comunitarie intanto è cambiato. Questa sentenza nasce dal ricorso di una coppia milanese che da anni si batte per dare ai figli il cognome della madre. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di GR24. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con Viva Voce, tema di oggi gli errori medici. La prossima edizione del giornale radio alle 10. Promo 24. Se stai per festeggiare la conclusione di un affare, prima accertati che sia un affare sicuro. Il portale Registro Imprese consente a tutte le aziende l'accesso online ai servizi nazionali delle Camere di Commercio. Con un semplice clic potrai accedere a informazioni ufficiali, complete e aggiornate su oltre 6 milioni di imprese. Avrai la possibilità di richiedere una visura, cercare un protesto, controllare marchi depositati e bilanci e potrai ottenere queste informazioni a un costo vantaggioso. Anzi, se ti registri entro la fine dell'anno, fai già un buon affare. Hai 15€ di interrogazioni gratuite. Il portale Registro Imprese lo trovi su www.registroimprese.it. Radio 24. La passione si sente, si sente, sente, sente. Radio 24. La passione si sente. La passione non ha prezzo. Non ha prezzo. Ma la maglietta della passione la trovi sul sito www.radio24.it. La nostra ispirazione è un artista del volante. Un pilota in grado di aggiungere qualcosa alla perfezione della guida. Sapeva divertirsi. Agli alfisti di ieri, oggi e domani, regaliamo qualcosa in più che un sistema di guida perfetto. Alfa Romeo 159 con cambio automatico Q-Tronic incluso nel prezzo. Scopritela a 159€ al mese con Alfa Romeo Più. Solo fino al 30 settembre, TAG 723. Professionista, perché ti lamenti? Arrivano tardi gli aggiornamenti. Combatti lo stress, non fasciarti la testa. Scegli Zucchetti e inizia la festa. E tu, azienda, cosa c'è che non va? Cala la produttività? Se i software che usi non rendono molto, scegli Zucchetti, il problema è risolto. Ascoltare il cliente è la soluzione. È questo che fanno le nostre persone. Un mix vincente di cervello e passione. www.zucchetti.it per scoprire il meglio dell'IT. Zucchetti, software e hardware per aziende, professionisti e pubblica amministrazione ad altissime prestazioni. Ciao, sono Cristina Chiabotto. Porto sempre con me il mezzo litro di Rocchetta, acqua della salute. In auto, in palestra, a passeggio. Rocchetta mi depura ed è l'amica della mia bellezza. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori. Plin plin! Benvenuto. Benvenuta a te, Sabrina. Ti piace la parola benvenuto? Ultimamente la uso spesso in TV. Sai che c'è la nuova collezione 2009 poltrone sofà? Certo. E andrei a vedere la nuova collezione 2009 di sofà in tessuto. Che domande. Regalano il secondo rivestimento e 5 anni per sceglierlo. Ma va. Allora è matto chi non vada poltrone sofà. Nuova collezione 2009 poltrone sofà. Sofà, sofà, sofà. Felice? E beato chi sofà il sofà. Numero verde 800 900 600. Uliveto ti aiuta a digerire meglio. Rocchetta ti depura da scorie ed elimina i liquidi in eccesso. Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Vi presentano Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Statistiche precise non ce ne sono, esistono delle stime. Il problema è che in Italia non esiste, per esempio, un osservatorio indipendente che studia il fenomeno. Ma alcuni numeri possono aiutare a capire. Per l'ordine dei medici, ogni anno, una statistica recente, una stima recente, ci sono circa 16.000 denunce contro strutture sanitarie o medici per presunti errori. Secondo altri è peggio, per esempio l'associazione che raggruppa gran parte delle imprese di assicurazione italiane ha fatto sapere che per operazioni sbagliate, errori nella somministrazione dei farmaci, insomma tutto quello che è il classico cosiddetto errore medico, presunto errore medico, negli ultimi 10 anni sono aumentate le denunce del 66%, erano 17.000 nel 96, sono salite a 28.000 nel 2006. Ma chiunque entri in un ospedale, in una struttura sanitaria, abbia un approccio quotidiano col medico, teme sempre di più l'errore, sempre di più denuncia, sempre più spesso trova un'associazione pronta ad aiutarlo, appoggiarlo, a pagare le spese, a portare avanti le cause, civili o penali. E secondo un'altra stima, l'80% dei chirurghi non arriva a fine carriera senza una denuncia o peggio un avviso di garanzia. Ovviamente cosa succede? Che poi i costi aumentano, tanto per dire un'altra cifra, la sanità italiana, che poi chi la paga siamo noi, mette 500 milioni di euro l'anno solo per assicurare le strutture pubbliche dal rischio di errori e quindi di eventuali cause. Tanto che qualche giorno fa il ministro Brunetta è stato chiaro, sentite cosa ha detto a Radio Radicale. Dall'anno prossimo io vorrei che fossero pubblicati i curricula, gli score operativi dei chirurghi, per esempio, in maniera tale che se io devo farmi operare posso e devo sapere se quel chirurgo è un macellaio oppure è un genio oppure è una persona efficiente di qualità. Mi leggo tutto sul succo di frutta piuttosto che sull'ultimo telefonino e non so se quello che mette le mani su di me per operarmi è uno bravo o uno non bravo. Quanti ne ha ammazzati, quanti ne ha salvati. Ma questa è una follia. Vabbè, il linguaggio è diretto, si sa tutto del succo di frutta e non si sa se il chirurgo da cui vado è un macellaio oppure uno che salva tante vite. Parliamo di errori medici oggi, voglio salutare Maurizio Maggiorotti che presiede AMAMI, l'associazione dei medici accusati di malpractice ingiustamente. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Così come saluto l'avvocato Francesco Lauri, presiede Osservatorio Sanità, un'associazione che si occupa di errori medici da tempo. Benvenuto avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. E così come voglio salutare il procuratore capo di Pinerolo, che è stato anche procuratore a Roma da anni, insomma si occupa, studioso della materia di questo tema, Giuseppe Amato, benvenuto. Buongiorno procuratore. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Allora, l'apertura di borsa con Deborah Rosciani e poi iniziamo. Buongiorno, ieri i listini mondiali hanno archiviato una nuova seduta all'insegna delle vendite, a pesare l'andamento del prezzo del petrolio, ma soprattutto la crescente incertezza sui tempi e sulle caratteristiche del maxi piano di salvataggio presentato dall'amministrazione Bush. Oggi ci si prova a rimbalzare in Europa con rialzi che a Parigi sono dello 0,44%, Francoforte più 0,53%, Milano più 0,39% sull'S&P MIB. Da qualche giorno è ripresa anche la corsa dell'euro sul dollaro, oggi il cross è a 1,46,83. Piazza Affari stamattina punta su Telecom più 2,23% sulla notizia del possibile ingresso di un fondo sovrano libico, Seat più 2%, Fondiaria Assai più 2, Mediolanum più 2, quindi il recupero dei titoli bancari ed assicurativi. Segno meno invece sui titoli che ieri hanno corso di più, Tenaris meno 3%, Eni meno 2,31%, l'Espresso invece già pesante ieri, anche oggi perde quasi 2 punti. Per ora è tutto, buona giornata. Alle 9:12 minuti 800 24 00 24 per intervenire, parliamo di errori medici o di presunti errori medici, perché sono così aumentate le denunce negli ultimi 10 anni. Presidente Maggiorotti, tra l'altro, come stretta attualità, oggi questa sera credo parta una fiction su Canale 5 dal titolo Crimini Bianchi, è giusto così, credo che parli di mala sanità o presunta mala sanità. Lei, come presidente dell'associazione AMAMI, vi siete molto arrabbiati a dire bisogna bloccarla addirittura una fiction del genere, perché? Beh, ovviamente il fatto di bloccare la provocazione è semplicemente che non è certo un titolo felice, perché una fiction che mira ad appassionare il pubblico contro i medici e contro la sanità non è simpatica, tanto più quando poi sconfina il concetto della fiction, quindi pura fantasia, pura finzione, ma addirittura gli si vuol dare un taglio educativo per la classe media. Ecco, questo è assolutamente inammissibile, perché finché si gioca, ma poi non bisogna farlo diventare sul serio, sì, quel discorso, perché parlare con disinvoltura di professionisti, che ricordiamoci che un chirurgo, io ma tutti gli altri, per diventare tale hanno sostenuto 75 esami universitari in 11 anni, cioè 6 di medicina e 5 di specializzazione. Quindi insomma, mi sembra che adesso svilirci a livello di uno yogurt non è simpaticissimo. Vabbè, poi arriveremo, era il succo di frutta, ma arriveremo alla provocazione, insomma poi la proposta di Brunetta. Però rimanendo sempre alla fiction, al di là del titolo poi non l'abbiamo neanche vista, quindi voglio dire non... Assolutamente, noi ci siamo scagliati sul titolo, perché parlare di crimini bianchi significa già fare diagnosi e non solo, fare quindi un'indagine e aver condannato. Perché nel momento in cui si riconosce un medico come un criminale, significa che abbia fatto qualcosa di penalmente rilevabile e quindi che sia tale. Ma lei come se la spiega questo aumento di denunce? Cioè il fatto che ne so, adesso... Basta ascoltare la borsa che fate prima, no? Cioè voglio dire, la borsa non tira il mattone neanche, quello che non perde mai è la causa al medico, lì si vince sicuramente. Quindi perché dovrebbero smettere di fare causa ai medici? Cioè il boom del contenzioso sicuramente ha una motivazione che nel 90% dei casi è dettata da questo, nel 10% dei casi è doverosa, è giusta, perché chi sbaglia deve essere punito, chi sbaglia deve pagare. Ma attenzione, cioè è ridicolo quello che si sta facendo. L'avvocato Francesco Lauri, come detto, presiede Osservatorio Sanità, è un'associazione che si occupa di questo. Tra l'altro, avvocato, credo che tutta la spinta sia nata, so che lei lo dice anche sul sito dell'associazione, da una vicenda personale, credo, no? La vicenda che ha coinvolto suo suocero. Personale che va al di là, diciamo, di qualsiasi valutazione più o meno, come dire, soggettiva su un errore professionale. Lì si è trattato proprio di un errore talmente marchiano da andare proprio al di là del concetto di malasanità. È stata il decesso del padre di mia moglie dovuto ad un farmaco cui era allergico e che la cui allergia era diffusamente descritta in cartella clinica, infermieristica e quant'altro. Quindi voglio dire, è stato un grave errore che ha portato logicamente alla condanna del medico e dell'infermiere. Ma questo, voglio dire, è un caso personale che, ripeto, terrei lontano da quello che poi nel frattempo, come dire, abbiamo cominciato a registrare. Parlava il dottor Maggiorotti di una percentuale del 10% che porta a una condanna, credo di aver capito così. Ora, sì. Io non so darle percentuali, non so darle stime, e francamente è quello che non lo voglio neanche fare. Io le do una così, le do lo spaccato della nostra associazione, di quello che abbiamo registrato da un anno esatto di messa in rete, cioè da quando siamo praticamente noti alle persone. Abbiamo ricevuto migliaia di denunce, di segnalazioni, direi, segnalazioni che spaziano dall'episodio di maleducazione al vero e proprio problema da attenzionare, perché noi prima di poter dire che c'è stato un errore, che si può parlare di errore, siamo molto cauti, facciamo analizzare le cartelle cliniche e la documentazione sanitaria dagli specialisti che lavorano all'interno dell'associazione, quindi medici legali e specialisti. Spesso e volentieri ci riferiamo a una second opinion, cioè se non siamo convinti o comunque se è un caso borderline, piuttosto che intraprendere un'azione che poi, voglio dire, un'azione giudiziaria fortunatamente ne faceva pochissime, perché evidentemente le stesse strutture sanitarie con le quali cerchiamo un dialogo e quindi le loro compagnie di assicurazione riconoscono poi sì, una via stragiudiziale, diciamo. E questo avviene, le dico, nella quasi totalità dei casi, dico quasi perché certe pratiche sono ancora in via di definizione, ma al momento, voglio dire, non ci troviamo a dover registrare, tra virgolette, sconfitte. Questo però, mi scusi avvocato, ma questo quanto dipende anche dalla, se mi passa questo termine, dall'aggressività sul tema? Insomma, basta andare su un motore di ricerca su internet e digitare errori medici, come abbiamo fatto noi ieri in redazione, e escono fuori associazione, SOS errori medici, studio avvocati, vi paghiamo tutto, vi paghiamo in anticipo. Io penso che questo sia salvifico per una serie di motivi. Allora, in primis... Cioè la categoria io è spaventata, voglio dire. Però io non riesco a capire come il dottor Maggiorotti possa paragonare l'intrapresa azione legale nei confronti di un professionista ad una speculazione finanziaria. Cioè, se l'avvocato intraprende un'azione tout court senza avere a monte uno screening serio, peculiare da parte di specialisti che oggettivamente dicano se ci sono o meno i requisiti perché si possa parlare di errore giudiziario, l'avvocato perde la causa, è molto semplice, e l'assicurazione non paga. Cioè, no, io non ho mai visto un avvocato che così prova ad intraprendere un'azione e la vince, almeno. No, no, ma su questo c'è da dire una cosa. Sicuramente però questo fenomeno ha fatto lievitare tantissimi costi. Io la voglio ripetere questa cifra: 500 milioni di euro che vengono pagati per assicurare sostanzialmente le strutture pubbliche da eventuali cause, rischi, eccetera. A questo proposito io voglio andare dal procuratore capo di Pinerolo, Giuseppe Amato, come detto è stato anche procuratore a Roma. Sì, procuratore, dica. No, sostituto procuratore. Sostituto procuratore a Roma, sì, certo. Adesso a Pinerolo invece è procuratore capo. Si occupa di questo tema. Mi ha incuriosito e mi ha colpito molto quello che ho letto di recente in un'inchiesta sull'Espresso. Anche il PM Piero Basilone, che credo è un sostituto procuratore a Milano, ha detto è difficile dimostrare che un comportamento corretto avrebbe sicuramente evitato una lesione, la morte del paziente. Per cui il 70% delle denunce in media le archiviamo appena arrivano. Adesso, come al solito, statistiche precise non ce ne sono, insomma si tratta di verificare un po' quello che succede. E allora, se vengono archiviate così tante, perché ce ne sono sempre di più che approdano nei tribunali? Ma guardi, le posso dire, con massima obiettività, senza poter dire i medici di oggi sono meno bravi o più bravi di quelli di ieri. Indiscutibilmente l'aumento del contenzioso c'è per un effetto patologico che nasce da una tendenza anche emulativa di ciò che è avvenuto per esempio negli Stati Uniti, dove c'è stato anche in alcuni momenti un abuso delle cause risarcitorie, ma c'è anche in conseguenza di un effetto indotto dalla crisi del settore, dove evidentemente per i disservizi che caratterizzano, non tutti riconducibili ai medici, ma che caratterizzano il settore sanitario, il paziente si trova a dovere essere curato in strutture assolutamente insufficienti, senza personale, con lunghe attese, con un'anamnesi frettolosa, e questo porta ad un oggettivo anche risentimento rispetto ad una convinzione di non essere ben curati. Da qui nasce questa accentuazione di questo contenzioso sia in sede penale che in sede civile. Diceva bene il collega di cui lei ha riportato il giudizio che l'accertamento della responsabilità del medico è un accertamento molto complesso che presuppone attenzione, e soprattutto quando discutiamo non di errori commissivi, cioè dell'errore che il medico fa, per intenderci lascia la garza o non cuce la ferita, ma parliamo di comportamenti omissivi, ovvero sia quelli su cui più statisticamente si pone un problema di responsabilità. Pensiamo alla omessa diagnosi e quindi il problema che l'omessa diagnosi può avere determinato un aggravamento della malattia. Ebbene, in queste situazioni la certezza processuale, l'aldilà di ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza più che della colpa, prima della colpa, di un collegamento causale tra il comportamento omissivo del medico e l'evento mortale patologico subito dal paziente. È difficile. È un accertamento oltremodo difficile. L'aldilà di ogni ragionevole dubbio significa disamina delle consulenze di parte, significa disamina della statistica che ha caratterizzato un certo tipo di intervento, e soprattutto, questo lo voglio dire perché deve essere estremamente chiaro, l'attività del medico è un'attività intrinsecamente rischiosa, quindi noi non dobbiamo, e qui penso alla statistica del ministro Brunetta, non possiamo fare una sorta di operazione matematica, quanti decessi il medico è bravo, sì, quanti dipende, decessi, esatto, il settore, il tipo di operazioni, no, questo è vero. Intrinsecamente rischiosa, ciò che significa che ci possono essere situazioni dove l'evento mortale è assolutamente prevedibile, però non è prevenibile. Rispetto a queste situazioni, in difetto di una dimostrazione di un comportamento colposo, l'evento mortale è assolutamente non significativo rispetto all'addebito di responsabilità. Diversamente correremmo questo rischio che nessun medico interverrebbe consapevolmente e scientemente, e avremmo l'effetto opposto di quello che noi vogliamo, cioè una migliore sanità, non interverrebbe in tutti i casi dubbi, in tutti i casi fortemente rischiosi. Da questo punto di vista, un'altra dichiarazione che mi ha colpito è quella del cardiologo Marco Bobbio, che è un professore, tra l'altro ha scritto vari libri molto interessanti anche sul tema e sulla sanità, mettendo anche un po' in crisi alcuni settori della sanità, denunciando quello che c'è di stortura. Ha detto sostanzialmente c'è un imbarbarimento sociale che porta ogni individuo a sentirsi vittima di un torto, sempre e comunque dalla bega di condominio ai problemi più gravi, per cui ha citato un paradosso: diventare madri è sempre meno pericoloso oggi rispetto al passato, ma fare ginecologi lo è sempre di più, perché non si accetta di dire perché se capita è capitato proprio a me. La verità è, ha detto Bobbio, che la guarigione non è mai certa, i pazienti però questo non lo accettano e vanno dal giudice. Però le chiedo, Maggiorotti, perché temete, al di là del linguaggio, vabbè, il succo di frutta, sappiamo, Brunetta è stato anche nostro ospite, è uno che parla così, per farsi capire, no? Al di là del linguaggio anche truculento e tranchant, perché temete un eventuale anche controllo dei curriculum, a sapere? Le cito questo esempio, visto che all'Italia è sulla bocca di tutti. L'altro giorno una pilota, ai nostri microfoni, ha detto: va bene, io però da pilota faccio 3 esami all'anno per valutare tutte le mie situazioni psicofisiche, perché coloro che volano mi affidano la vita, perché i medici no? Allora, innanzitutto devo applaudire all'intervento del procuratore Giuseppe Amato, perché è stato di una lucidità folgorante, nel senso che ha detto esattamente tutto quello che diciamo noi da sempre, lo proporrò come membro onorario di Amazon. Detto ciò, non so se il procuratore Amato è contento di questo, ma comunque poi abbiamo già un altro paio di giuristi che sono di Amazon. Vabbè, dica però che cosa temete da questa azione di Brunetta, al di là lasci stare il linguaggio. Assolutamente nulla, nel senso, ma ben venga, ma i curriculum dei medici sono pubblici. Cioè, voglio dire, il discorso ha tre fronti. Allora, innanzitutto, noi quello che temiamo veramente è l'effetto psicologico della popolazione. Io l'altro giorno visitavo una paziente che mi ha detto: dottore, io devo denunciare quell'ospedale perché mio padre si è ricoverato, è entrato per guarire, è morto, qualcuno ha sbagliato. Allora, se passa questo tipo di concetto, lei si rende conto di che cosa succede? Sì, non accettare il fatto che si possa, non si possa guarire. L'ospedale è il posto più logico dove porre fine alla propria esistenza vitale, non è l'asfalto il posto più logico, il posto più logico è l'ospedale. Io sento dire addirittura: ma io voglio sapere in quell'ospedale quanti ne sono morti. Cioè, ma che siamo impazziti? Cioè, veramente abbiamo rivoluzionato tutto. Ecco, l'effetto del discorso della ginecologia è tipica. I ginecologi perché hanno visto un contenzioso esasperato, esplosivo? Lei consideri che dal 1960 ad oggi il tasso di mortalità del rapporto sia materno che neonatale è diminuito del 95%. Le cause ginecologi sono aumentate del 400%. Che significa? Significa innanzitutto che pagano quello che si chiama l'effetto champagne, cioè è l'unico caso in cui uno va a fare un intervento chirurgico con una bottiglia di champagne nel frigorifero. Quindi non è ammissibile che possa succedere la benché minima cosa. Una cosa per tutte: c'è stata una campagna disinformativa contro il parto cesareo. Nessuno ha mai rilevato che tutte le spasticità derivate dai parti non cesarei, quindi i cosiddetti parti naturali, tutta la mortalità che c'era prima dell'avvento del cesareo si è sottaciuta completamente. Cioè, voi vi ricordate tutti i bambini spastici, tutti i grandi ormai che hanno l'età mia, se ci sono arrivati, sono tutti figli di mancanze. Oggi non ci sono più, tutti gli spastici che vediamo li vediamo oggi nei paesi del terzo mondo. Allora perché scatenarsi contro i ginecologi che fanno il mestiere nel modo migliore e quindi facendo anche il cesareo? No, ma su questo ritorniamo, perché lei dice tutto chiaro, sono tutti pubblici i curricula, però insomma su questo punto del ministro Brunetta torniamo anche nella seconda parte. Un paio di ascoltatori, poi vado anche dall'avvocato Lauri. Teresa da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Guardi, io mi riallaccio a quanto ha detto il ministro Brunetta, e visto che il ministro Brunetta ministro della pubblica amministrazione e l'università è una pubblica amministrazione, mi permetto di aggiungere che oltre a segnalare i casi di medici che sono stati dichiarati colpevoli di errore medico, penso che dovrebbe fare in modo anche che queste persone, qualora insegnino all'università, vengono rimosse dal loro ruolo, perché molto spesso assistiamo a docenti universitari. Sì, guardi, nel suo intervento più ampio, in realtà io l'ho limitato ai medici, ma aveva detto questo che dico per i medici deve valere per professori universitari, per tutti coloro, cioè la trasparenza, insomma, comunque. Sì, però come di questo il ministro Brunetta non aveva parlato. No, ne aveva parlato in un intervento più lungo. Io ho preso la parte relativa ai medici, proprio in quello stesso audio diceva: questo vale per i medici come deve valere per i professori universitari, quindi l'ha detto questo per correttezza, la informo di questo. Allora, mi scusi, ma ero informata male. Vabbè, non l'abbiamo sentito, insomma, ma quella parte. Comunque, grazie Teresa. Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo invece fare un intervento in cui vorrei prendere un po' le difese dei medici, perché io ho ascoltato il rappresentante dell'associazione dei sì, pazienti, e lui dice: è vero, se l'avvocato tenta la causa e la perde, l'assicurazione non paga. Però questo è vero se i tempi della giustizia fossero dei tempi normali. Purtroppo in Italia i tempi della giustizia sono molto lunghi, e spesso e volentieri il medico, soprattutto quando la cosa è, quando magari un medico noto, eccetera, eccetera, preferisce magari transare prima di arrivare ad una causa, sì, per senza imbarcarsi insomma in una vicenda civile o penale molto lunga. Esatto. No, questo è un altro tema interessante. Da qui ripartiamo tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. Risponderà l'avvocato e anche il procuratore, perché insomma questo è un aspetto interessante. C'è una causa che mediamente civile dura magari 8 anni, uno dice sapete che c'è, piuttosto paghiamo, e questo fa lievitare i costi dell'assicurazione, lievitare i costi per assicurare le strutture pubbliche, e li paghiamo noi, questo va sempre ribadito, visto che si pagano 500 milioni di euro per assicurare le strutture sanitarie pubbliche, e quindi questo può incentivare insomma la voglia di fare causa. Ma tra poco da questo punto ripartiamo, subito dopo la pubblicità. Lei che fa per vivere? Ricercatore. Sarebbe? Indago la natura intima dell'universo nei primi attimi successivi al Big Bang, le sue simmetrie, gli equilibri, materia, antimateria. Roba di dinosauri? Beh, un po' prima. Durante la settimana della scienza, che si svolgerà dal 22 al 27 settembre, Frascati Scienza presenta La Notte Europea dei Ricercatori 2008. Per il terzo anno consecutivo, un progetto promosso dalla Comunità Europea contemporaneamente in oltre 40 siti in tutta Europa. Il 26 settembre, in uno dei più estesi ed importanti distretti della ricerca scientifica d'Europa, nella città di Frascati, a partire dalle 16, laboratori aperti, incontri con autori e ricercatori, festival dei saperi, cinema, astroclown, concerti, Luna Park della scienza, osservazione stellare. Dal 22 al 27 settembre, Frascati, www.nottedellaricerca.eu. Evento organizzato da Frascati Scienza in collaborazione con CNR, ENEA, ESA, ESRIN, INAF, INFN, Università di Tor Vergata, Comune di Frascati, ATA, ETA Carine. Sotto l'atto patronato del Presidente della Repubblica, con il partito del Ministero della Salute, della Commissione Europea, della Solo con Opel cominci a risparmiare fin dal primo giorno, con consumi da 26 km al litro, ecodiesel allo stesso prezzo del benzina, ecoincentivi senza vincoli, da 90 euro al mese, tag massimo 9 e 12. Solo con Opel, il vero risparmio è per tutti, sabato e domenica. Destinazione, percorso, preparazione pratica SPA, esame normativa, stesura contratti, adempimenti e archivio. Partenza! Dottore, dove sta andando? Beh, con il software Bpoint Direzione Studio è come avere un navigatore nello studio. Le pratiche sono già impostate, la normativa è integrata nelle procedure, pianifico le attività, verifico l'avanzamento lavori e dritti al risultato risparmiando tempo. Grande Bpoint! Allora buon viaggio! Ops, buon lavoro! Bpoint Direzione Studio, il navigatore del commercialista, da Osra e il Fisco, protagonisti nel software e nell'editoria. Quello che sentite è un comune vetro di una comune casa. Quello che sentirete ora è ciò che può fare da oggi grazie ad Esco Energy. Dalla ricerca Esco Energy nasce il primo gel fotovoltaico trasparente da applicare ai vetri delle finestre di casa. Un brevetto mondiale per trasformare le vostre finestre in veri e propri pannelli fotovoltaici per illuminarvi e darvi energia. Per informazioni vai su www.escoenergy.eu. Esco Energy. Your life. Your light. Chi ha spento la finestra? Paolo, ma quando corri in bici a chi pensi? A te. Anche in volata? Certo. E la vittoria a chi la dedichi? A chi dorme con me. Energetic, il materasso che mi ricarica di energia, assecondando i movimenti naturali del corpo durante il sonno. Ingrato, riposa, riposa che domani devi pedalare. Il campione del mondo Paolo Bettini ha scelto Energetic, il materasso ergonomico per un comfort sano, prodotto e distribuito da Bedding Industries e Manifattura Palomo. Energetic, il materasso che ti ricarica. www.energetic.com. Salve, sono l'antropologo Erminio Balladori. Studiando la tribuline ero scoperto che i nuovi assicurati hanno l'aria più soddisfatta che mai, perché non solo possono risparmiare fino al 40% sull'RC auto, ma oggi se non hanno avuto sinistri da 5 anni hanno anche il nuovo sconto benvenuto del 10%. Per un preventivo gratuito vai su linear.it oppure telefona all'800 112 233. Linear, assicurazioni in linea con te. Sconto benvenuto non cumulabile con altre agevolazioni o sconti. Scade il 31 dicembre 2008. Domani con il Sole 24 Ore, Nova 24, il business delle energie rinnovabili. Come lo sviluppo tecnologico apre nuove opportunità per le imprese. Scienza e medicina, al via la sperimentazione dell'occhio bionico che salverà la vista. Domani in regalo con il Sole 24 Ore, Nova 24, il supplemento di ricerca e innovazione. State ascoltando un programma offerto da Uliveto, ti aiuta a digerire meglio. Rocchetta ti depura da scorie ed elimina i liquidi in eccesso. Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Viva voce! 800 24 00 24 per intervenire. La seconda parte di Viva Voce parliamo di errori medici o di presunti errori medici, del perché questo contenzioso sia così aumentato negli anni, nell'ultimo decennio, ricordiamo 66% in più. Ci ha raggiunto un ospite che tra poco saluto. Prima però, avvocato Lauri, vuole replicare all'ascoltatore che dice, insomma, poi le cause civili sono lunghe, anche penali, e quindi tante volte si arriva, anche per il medico è facile, o per la struttura, pagare per non allungare poi i tempi della giustizia e non avere una causa per anni. Sì, allora intanto vorrei fare una precisazione. Quanto ha detto il procuratore, il sostituto procuratore, è sacrosanto, però questo, come dire, vale sotto un principio penalistico, ovvero il concetto di là del ragionevole dubbio, che poi è la nota sentenza francese, ha efficacia, spiega la sua efficacia in ipotesi di un contenzioso penale, cioè il cittadino che presenta la denuncia per lesioni oppure un procedimento che d'ufficio parte per omicidio colposo. Nel caso in cui si decida invece di affrontare un contenzioso civile, quindi in buona sostanza accertare le responsabilità della struttura o del medico sotto un profilo risarcitorio, ecco, lì la Cassazione sposta, se vogliamo, il punto di mira. Intanto ci sono state una serie di pronunce recepite dalla recente sentenza della Cassazione del gennaio 2008, che in buona sostanza inverte l'onere probatorio, cioè il cittadino prova il contratto, prova di essere venuto in contatto con il medico e con la struttura sanitaria, e nell'ipotesi in cui ci sia stato un aggravamento o addirittura un decesso, è il medico e la struttura a dover dimostrare perché questo è avvenuto. E secondo me questo è sacrosanto e assolutamente democratico. Così come democratica e giusta è la scelta, la decisione di un cittadino di cercare di capire cosa è successo. Se un mio parente entra in una struttura sanitaria per sottoporsi a un banale intervento e muore, oppure riporta una lesione permanente, resta paralizzato, è giusto che io sappia che cosa è successo. Se è successo qualche colpa, questo allora, sicuramente. No, ma questo sicuramente. All'ascoltatore. Allora, qual è poi il procedimento? Il cittadino, io parlo sempre di cittadini, non a caso utilizzo questo termine, perché la sanità è l'ultima frontiera in cui il cittadino vuole rimanere tale e non sentirsi un consumatore. Se qualcosa non va, vuole avere di conto, vuole sapere che cosa è successo. E allora viene da noi o da associazioni come la nostra, mi auguro serie come la nostra, lo dico senza falsa modestia, e ci chiede di valutare le carte. Noi sottoponiamo le carte, i nostri medici vedono le carte, a quel punto inizia un dialogo con la struttura sanitaria o con l'assicurazione di riferimento. L'assicurazione non è che prende e tratta così tanto per, dice vabbè, invece di evitare un giudizio ti pago, manda la propria pratica ad un medico legale, verosimilmente a più medici legali della compagnia, spesso e volentieri si tratta di un collegio di specialisti, i quali, se ravvisano la responsabilità, dicono all'assicurazione: guardate, è inutile che affrontate un giudizio perché lo perdete. Allora, questo è il procedimento, per cui l'avvocato che ci prova, per così parafrasare il concetto del dottor Maggiarotti, è un avvocato destinato a una sconfitta per sé e per la categoria dei cittadini che assiste. Allora, io voglio salutare il professor Stefano Rodotà. Buongiorno, professore. Buongiorno. Stefano Rodotà, insomma, insegna diritto civile alla Sapienza, è già stato anche presidente dell'autorità garante per la privacy, spesso lo leggiamo su Repubblica, insomma, questo per non c'è bisogno di molte e ulteriori presentazioni. Io voglio ricordare anche che il professor Rodotà è responsabile scientifico del Festival del Diritto, la cui prima edizione parte domani a Piacenza, è organizzato dalla Terza in collaborazione col Sole 24 Ore. L'abbiamo chiamata, professore, perché anche di questo, di errore medico, non solo, poi magari allarghiamo di che cosa si parlerà, ma anche di errore medici, di questioni di vita sostanzialmente, si parlerà in questo Festival del Diritto. Le chiedo innanzitutto, da giurista, che ne pensa del fatto che la salute e il diritto, la salute è un bene così importante, personale, il diritto, vanno sempre più a braccetto, insomma, in questo caso addirittura perché spesso si ricorre al giudice se succede qualcosa in campo sanitario. Beh, soprattutto negli ultimi anni, e aggiungo giustamente, La salute è al centro non solo dell'attenzione pubblica, ma dell'attenzione e della riflessione costituzionale, considerandosi la salute davvero come, non voglio dire il più fondamentale dei diritti fondamentali, ma certamente un diritto al quale viene attribuita una tutela particolarmente forte. Lo ha detto molte volte la Corte Costituzionale, lo hanno ribadito i documenti internazionali, lo dice la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi la salute come prerogativa della persona che deve essere protetta in tutte le forme, una salute che deve essere da una parte tenuta al riparo dalle aggressioni esterne e dall'altra consegnata anche alla responsabile autonomia della persona. Quindi diritto fondamentale in due significati: io governo il mio corpo e la mia salute e per esempio posso rifiutare le cure, è il dibattito che abbiamo intorno in questo momento, ma nello stesso tempo, proprio perché sono io che governo il mio corpo, devo avere la possibilità di respingere tutte le aggressioni che vengano dall'esterno, anche quando sono state occasionate dal fatto che questo corpo e questa salute io voglio tutelarla, voglio farmi curare. Però professore, qual è il limite da non oltrepassare per evitare che i giudici siano in qualche modo, il giudice come figura, il tribunale, la magistratura, padrone in qualche modo di un bene così primario, nel senso che dalla causa per la garza dimenticata nello stomaco alla causa per invece il caso Englaro, tanto per citarne uno, insomma il rischio è che poi anche dalla parte della categoria dei medici ci sia un vero e proprio terrore nei confronti di un bene che non è più a loro prima disposizione, ma viene passato magari per i tribunali. Lei ha ricordato che comincia domani a Piacenza questo festival del diritto che si chiama proprio Questioni di vita, in cui è organizzata una sessione proprio sulla responsabilità del medico, e c'è una sessione, poi una discussione, una tavola rotonda che ha proprio il titolo con punto interrogativo: i giudici padroni della vita. Qui dobbiamo intenderci: da una parte è giusto che le categorie professionali, quali i medici, possano avere dei parametri rigorosi per poter lavorare senza essere, come dire, intimiditi o preoccupati dal rischio del risarcimento del danno. Dall'altra, la vicenda del caso Englaro, lì non c'è una supplenza dei giudici, sono dei principi generali che già esistono nel nostro ordinamento, che si ritrovano nell'articolo 32 della Costituzione, in leggi, nel codice di deontologia medica, che fa sì che il magistrato adatti al caso concreto il principio generale per cui la persona può disporre del proprio corpo fino al punto di poter rinunciare alla vita. C'è una sentenza della Cassazione di pochi giorni fa che ha ribadito il diritto dei testimoni di Geova di rifiutare le trasfusioni, sì, anche se questo può comportare la morte. Torno un momento al primo punto, ed è quello cioè del fatto che la crescita esponenziale che lei ricordava prima delle azioni di risarcimento soprattutto può determinare anche effetti negativi, e qui dobbiamo ricordare che l'esperienza più significativa è quella degli Stati Uniti, dove le cosiddette malpractices, cioè i comportamenti non diligenti dei medici, sono diventati progressivamente un gigantesco affare anche per gli avvocati, per i cosiddetti trial lawyers. C'è questo rischio, secondo lei? C'è questo rischio. Io non so se qualcuno ricorda un film che con Jack Lemmon e Walter Matthau, Non per soldi ma per denaro, dove appunto Jack Lemmon avrebbe avuto un incidente modesto e invece l'avvocaticchio, suo cognato Walter Matto, cerca in ogni modo di farlo comportare in modo tale da avere un gigantesco risarcimento del danno. Allora io direi una cosa molto precisa. Lo strumento della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno, è molto importante, come è così è stato concepito nel caso della tutela della salute negli Stati Uniti, come strumento di controllo del corretto svolgimento dell'attività dei medici e delle strutture sanitarie. Detto brutalmente, sì, come si diceva negli Stati Uniti, se noi li colpiamo nella tasca, nel denaro, staranno più attenti. E su questo, guardi, io professore la ringrazio, professor Stefano Rodotà, voglio ricordare www.festivaldeldiritto.it, da domani a Piacenza, visto che siccome ci sono tante tavole rotonde andate sul sito e troverete tutto. Diamo le informazioni sul traffico, poi riparto, ci sono gli ascoltatori, voglio andare anche dal procuratore Amato perché ci sono alcune cose interessanti ancora da chiarire dal punto di vista della legislazione, tra un attimo. Promo 24. Le indagini di mercato evidenziano l'importanza per il successo di piccole aziende e professionisti di avere sempre accesso alle email. TIM, vero partner per chi lavora con il telefonino, permette di avere internet e mail sempre con sé, con tante soluzioni immediate da abbinare a tutte le nuove offerte. Ad esempio, con TIM Affare Fatto al Lavoro bastano 10 euro al mese per avere la mail ovunque e il BlackBerry è incluso. TIM Affare Fatto al Lavoro, inoltre, è la tariffa con cui si paga realmente solo quello che si consuma, senza costi fissi. Durata contrattuale minima di 24 mesi, offerta soggetta a limitazioni, prezzi IVA esclusa. Per maggiori info andate su business.team.it o presso un negozio il telefonino TIM. Nuova Skoda Superb vi presenta Che strada fa? Situazione difficile sulla Firenze e Pisa-Livorno dopo un incidente, la superstrada è chiusa in entrambe le direzioni fra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze e tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno verso Livorno. C'è un incidente, coinvolti 6 vetture, 2 mezzi pesanti, ci sono code in prossimità delle chiusure. Ci sono incidenti però anche in prossimità dei grandi centri urbani sulla tangenziale est di Milano, si viaggia in coda all'altezza dello svincolo di Mecenate in direzione Autosole e coda per incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma tra Ardeatina e Laurentina sulla carreggiata interna. Incidente anche sulla A4 in Friuli, coda fra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Le altre difficoltà di questi minuti sono causate dai cantieri sulla tangenziale di Catania, si lavora all'altezza di Mister Bianco, lunghe code circa 10 km in direzione Siracusa, ancora per lavori, difficoltà su più punti dell'Autosole nella zona di Pian del Voglio e Attigliano e poi sulla 4, 6 km di coda nei pressi di Verona in direzione Padova, sempre per lavori. Un nostro ascoltatore ci avverte che c'è un cantiere anche sulla 22 del Brennero, 4 km di coda tra Alavio e Daffi in direzione Modena. Che strada fa, torna tra un'ora. Ci sono tanti modi per tutelare e prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Parlane con noi venerdì 26 e sabato 27 settembre all'INAS Days. Informati sulla prevenzione e tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il patronato INAS CISL ti aspetta nella tua città per presentarti i suoi servizi. INAS Days, venerdì 26 e sabato 27 settembre. I nostri servizi al servizio dei cittadini. Per informazioni chiama il numero verde 800 001 303. Viva voce. Ultima parte di Viva Voce, Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo dire la mia come punto di vista di un medico di famiglia. Ben venga la corretta informazione e bando ai corporativismi, questo come prologo, ma il problema è che si sta diffondendo ormai qui in Occidente, in Italia, quella che è la sindrome da indennizzo e il terrore che la classe medica vive quotidianamente. Quando io mi sono laureato, ormai parecchio tempo fa, il medico sapeva che l'intrinseco rischio dell'esercizio della professione era attribuito all'imperizia, all'imprudenza e alla negligenza. Oggi purtroppo veramente ci sono società, agenzie, gruppi di avvocati, speculatori che inzuppano il pane sulle paure che possono essere create in una classe medica che ormai è vastissima numericamente qui in Italia, siamo sicuramente oltre i 400.000 medici in Italia. Io addirittura ieri ho visto una notizia su uno dei siti dove mi vado a informare per le notizie quotidiane, dove la Cassazione andava definendo la colpa, non il dolo, la colpa da parte di un medico che, pur avendo prescritto una posologia corretta, adeguata, il paziente aveva avuto un danno non appropriata messa in atto della posologia, cioè in pratica aveva modificato quella che la posologia prescritta dal medico, aveva preso di più o di meno, insomma, ecco. Di meno, esatto, e quindi ne ha avuto un danno e il medico comunque era responsabile di questo. Ma insomma, lei dice c'è il terrore nella categoria, insomma, esatto, ormai di... Esatto, perché va al di là di quelle che sono le possibilità di controllo della propria azione. No, grazie Francesco. Procuratore Amato, è vero che solo in Italia e in Messico esiste la possibilità di perseguire penalmente l'errore medico, mentre in tutti gli altri paesi del mondo c'è solo la causa civile? Mi sento di poter fare un'affermazione così diciamo recisa sul tema. Onestamente non so se anche in altri ordinamenti. Quello che è certo che bisogna dare una risposta, credo tranquillizzante, se lei mi consente, una indicazione per una prassi virtuosa. Io mi riallaccio a quello che diceva il professore Rodotà, il principio fondamentale, il diritto alla salute. Il medico ha il diritto dovere di curare, e lo deve fare con massima libertà, ma deve rispettare la volontà del paziente. Il dissenso quindi del paziente deve essere il limite superato il quale il medico non può intervenire, dissenso che deve essere consapevole e cosciente. E qui viene il tema che secondo me, se affrontato adeguatamente, potrebbe risolvere ab imis veramente tanti di questi contenziosi: il consenso informato, che il medico deve perseguire sempre, deve offrire, perché evita delle incomprensioni, consente al paziente di essere consapevole di quella che è la scelta terapeutica e quelli che sono i rischi, ed evita anche dei rischi per lo stesso medico, che a fronte di un consenso consapevole certo non può essere chiamato a rispondere, come in un lontanissimo passato, addirittura di lesioni volontarie o addirittura di omicidio preterintenzionale, quando operava in assenza del consenso del paziente. Per quanto diceva invece il medico che è intervenuto prima, io non conosco ovviamente questa sentenza della Cassazione, però vorrei spezzare anche qui una lancia nell'interesse, nella direzione della tranquillità dei medici. La Cassazione, la giurisprudenza più convincente della Cassazione, della giurisprudenza di merito, consente addirittura le prescrizioni off label, cioè l'intervento terapeutico di un medico che prescriva un farmaco anche andando al di là di quelle che sono le indicazioni del cosiddetto bugiardino. Quello che la Cassazione e la giurisprudenza giustamente pretende una convincente opera di monitoraggio su quella che è questa scelta terapeutica, che deve poggiare evidentemente su degli adeguati presupposti scientifici, sì, proprio per salvaguardare anche quella che è un principio fondamentale, cioè la discrezionalità tecnica che deve essere attribuita e riservata al medico nel momento in cui sceglie la cura migliore per il paziente. Quindi addirittura andando al di là di quello che sarebbe codificato, purché però ci sia lo sforzo e l'attenzione su quello che è il meglio per il paziente, il monitoraggio continuo, la verifica di quelli che sono i risultati che derivano dalla somministrazione di quella cura. Intanto lei, Maggiorotti, insomma, la vedrà o no questa fiction, al di là visto che siamo partiti da questo? Guardi, io la vedrò sicuramente, ma per rispondere un po' a tutto quello che è stato detto finora, intanto io penso che poi Valsecchi ci debba dare una royalty, perché gli abbiamo fatto una pubblicità. Il produttore della fiction. E poi l'altra cosa è da non trascurare, che a questo punto io spero che voglia pubblicare quello che è un lavoro che sta facendo una nota psichiatra, la dottoressa Lucattini, che è Medici sull'orlo di una crisi di nervi, che verrà presentato fra l'altro in anteprima al congresso nostro dopodomani a Roma, Piazza Pio, del congresso nazionale dell'ANAMI a RIT. Il punto è questo, è vero. Sulla crisi di nervi perché? Sull'orlo di una crisi di nervi per l'aggressione totale. Lo sapete, io l'altro giorno facevo una battuta e dico: ho capito qual è il segreto professionale. il segreto professionale è far sparire il contrassegno medico, cioè non far sapere più a nessuno che uno è medico. Lei ha notato che non ci sono più automobili, io la mia esperienza umana, in cui si vede un contrassegno. Vabbè, però vi scusi, Maggiorotti, come conclusione, sembra un po' la sindrome d'accerchiamento. Io adesso questa lo aggressione è. Totale nei lo confronti è. Dei medici, lo è, dice. Io lo vedo è, medici tutti i giorni. Facilissimo, lei prende un chirurgo, chieda se ha mai avuto una richiesta di risarcimento o un avviso di garanzia. Se le dice non l'ho mai avuta, non opera, non lavora, non sta in nessun ospedale. No, questo è vero, l'abbiamo detto, forse l'80% ce l'ha, allora, però... Scusi, ma siccome non esiste una categoria, compresi gli spacciatori e stupratori, che in cui l'80% ha avuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento, c'è una patologia del diritto. Va bene, io mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie al procuratore Amato, a Maurizio Maggiorotti, all'avvocato Francesco Lauri, al professor Rodotà. Potete riascoltare tutto sul sito, io lo ricordo, Radio 24. .it in forma in MP3, in podcast, in tutti i formati insomma più moderni, la puntata la ritrovate. E ringraziamenti a Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Matè in regia. La mail vivavoce@radio24.it. A domattina. Radio 24, la passione si sente. Uliveto ti aiuta a digerire meglio. Rocchetta ti depura da scorie ed elimina i liquidi in eccesso. Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Vi hanno presentato Viva Voce. Dillo a tutti. Dillo a tutti. Dillo a tutti. Cos'è che devo dire a tutti? Che il contenitore Tetra Pak è riciclabile e naturalmente prima va schiacciato. E in quali città la raccolta Tetra Pak è già attivata? E come si fa il riciclo? Basta chiamare il numero verde 800 855 811 o collegarsi al sito www.tetrapak.it e poi dirlo a tutti. Dillo a tutti. Dillo a tutti. Dillo a tutti. Tetra Pak protegge la bontà e l'ambiente. Forse so dove trovare le informazioni per le mie idee di investimento. Togli il forse. Forse esiste il punto di riferimento per orientarmi tra Covered Warrant e Certificates. Sì, ma togli il forse. Con Unicredit dimentichi il forse. Visita il nostro sito e scopri 50 report al mese, oltre a prezzi e notizie in tempo reale per 2000 prodotti quotati e tutto quello che serve per i tuoi investimenti. Info su investimenti.unicreditmib.it o chiama all'800 01 11 22. Unicredit. Let's start. Prima di ogni investimento leggere il prospetto informativo. Per molti uomini la caduta dei capelli inizia prima dei 30 anni. Se è così anche per te, vai in farmacia. È nata una rivoluzionaria associazione molecolare dalla ricerca d'Ercos. Aminexil Energy ha la Minexil più Ginseng. Frena la caduta in sole 3 settimane e dà subito più materia ai capelli. Dal numero 1 degli anticaduta, d'Ercos Aminexil Energy, in farmacia. Immerso nel gelido fiume, si accorse che l'acqua non scorreva più e che nonostante il vento, le foglie erano immobili. Sentì il rombo di un motore, ma la polvere non mulinava. Un lampo attraversò il suo campo visivo e tutto tornò come prima. Gli elementi non rispettano solo le leggi della natura. Classe M nuova generazione, ancora più grintosa, ancora più esclusiva. Dal 26 al 28 settembre negli showroom Mercedes-Benz. Un fondo gratuito per la formazione? Forte! Forte, il fondo per la formazione continua del terziario, ha già finanziato le aziende italiane con oltre 230 milioni di euro. Aderisci subito a Forte se vuoi partecipare al prossimo avviso. Aderire a Forte è facile. Consulta il sito fondoforte.it. Avviso ai viaggiatori. Solo su Sky tutta la UEFA Champions League è in diretta con le sfide più emozionanti in alta definizione per una visione da prima classe. Per chi si abbona entro settembre, la UEFA Champions League, tutto lo sport e il grande calcio sono gratis fino al 2009. Non arrivate in ritardo. La promozione è valida fino a settembre. Questa è un'offerta. Questo è Sky. Offerta valida per abbonamenti ad almeno 2 pacchetti, compreso mondo. Dal 1 gennaio 2009 paghi solo quello che hai scelto. Info su sky.it. Produci software applicativi e devi gestire un mare di informazioni? Affidati al software IBM in modalità OM a un costo proporzionato alle tue revenue. Partecipa il 3 ottobre alla conferenza di Portofino. 0522 38 04 11. Strold, la scelta che crea valore. Sei in possesso di una laurea in discipline economiche e giuridiche? Vuoi integrare la tua preparazione di base? Acquisire conoscenze specifiche e aggiornarti nei settori del diritto tributario? Iscriviti alla sesta edizione del Master di Diritto Tributario dell'Università di Genova, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico e Processuale della Facoltà di Giurisprudenza. Iscrizioni fino al 20 ottobre 2008. Inizio del corso lunedì 1 dicembre 2008. Per informazioni www.mastertributario.unige.it. Sono le 10. GR 24, il sole 24 ore. Alitalia, CAI di nuovo in pista, oggi assemblea dei lavoratori a Fiumicino. Milano, adolescente muore carbonizzato, viveva in un capannone. Pena di morte negli Stati Uniti, sospesa l'esecuzione.